Oggi mi sono svegliato e, cosa assurda, mi sento un ragazzo nuovo. Che strano! Signori e signore, posso presentarvi ora questo cantautore. Arro su questo beat come un trattore, mentre dalla fronte scende il sudore. Di 5 anni posto su di una scena, stringo fra le mani una penna che non si frena. Passa su righe bianche, lascia parole sante. Sono un kamikaze che si lancia giù da sopra un ponte. Sì, ma quello di San Francisco. La base passa ed io intanto cresco, con il sottofondo che gira Sisco, da non confondere fischi con un fiasco di vino nero o un po' di champagne. Sono semplicemente Nuts, non Raz de Gun. Mi piace fare hip hop, rap, intendilo come vuoi. Mi puoi chiamare rapper oppure b-boy. Sicuramente chiunque io incontro, faccio amicizia ma resto sempre pronto per lo scontro. Perché sono solo nella cultura black. Se salato ti metto in un panino con una fetta di speck. Signore e signore, sono fuori da schizzare gioia da tutti i miei pori. Sono rosso di rabbia e guai se mi vedono i tori, perché oggi sono eccessivamente fuori. Signori e signore, sono fuori da schizzare gioia da tutti i miei pori. Sono rosso di rabbia e guai se mi vedono i tori, perché oggi sono eccessivamente fuori. Sono fuori, gente. Sono fuori, signore e signori. Alla radio si sentono solo tipi da cori che fanno la loro musica, ma sono fuori, sono out. Qui si deve chiamare un bel time out, come in una partita di pallacanestro. Tutti fanno rap considerandosi già come un maestro. Ci sono volte in cui mi comporto da maldestro, ma fa niente, rimango sempre lo stesso. Segui quattro quarti, racconto i miei fatti e prendo sentieri dritti, non storti, forti. Ci sono alberi morti con i frutti sepolti, piantati nel terreno. Piove e il cielo è sereno, di nulla qui io temo, ma tremo, fa freddo, faccio paura come Freddy Krueger, che con le sue dita affetta un cracker da spaventa. Sa senta se ne pura buna, ma vita do sonu guagnona, nanda a nu microfona. Tipo ti sei bagnata, ti serve mica un phon. No scusa, volevo spegnere solo i tuoi bollori. Mi devi scusare, oggi sono troppo fuori. Signori e signore, sono fuori da schizzare gioia da tutti i miei pori. Sono rosso di rabbia e guai se mi vedono i tori, perché oggi sono eccessivamente fuori. Signori e signore, sono fuori da schizzare gioia da tutti i miei pori. Sono rosso di rabbia e guai se mi vedono i tori, perché oggi sono eccessivamente fuori. Allora, panzama no peca, due crossiana soffreda, ambeta come sadisha. So bastarda manna fusce da do, se fatta tarda, vita da for, c'è e nota. Da cu da capiz tu i manna fotia, e meglio asci asciu qua cu pallona. Sei da ma, sei proprio nuke ghiona. Basta giovani, mi spiegate il significato di sto pezzo che io ho inventato. Non lo so neanche io, sparo tutto ciò che per la testa mi passa. Registro e la voce la sento dalla cassa, e in mente penso alle truffe, perché mi capita spesso di venire truffato, ed io li maledico il giorno in cui è nato. Sono sfasato, signore e signore, si è capito che sono fuori? Signori e signore, sono fuori da schizzare gioia da tutti i miei pori. Sono rosso di rabbia e guai se mi vedono i tori, perché oggi sono eccessivamente fuori. Signori e signore, sono fuori da schizzare gioia da tutti i miei pori. Sono rosso di rabbia e guai se mi vedono i tori, perché oggi sono eccessivamente fuori.